Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dalla vostra Camilla Lattanzi. Siamo alla seconda puntata di Restiamo Animali, il nostro viaggio attraverso stili di vita, azioni e modi di pensare cruelty free. Continuiamo assieme a esplorare le ragioni e le proposte di quel vasto movimento di scienziati, giuristi, attivisti, filosofi, cuochi e persone comuni che stanno producendo un cambiamento culturale epocale nella relazione con gli altri animali, facendo di loro non più oggetti e vittime, ma soggetti, senzienti e partecipi, assieme a noi umani, della grande comunità dei viventi. La prima puntata è stata un grande successo, a giudicare dalle 450 visite che ha avuto il nostro blog. Molti commenti, tutti incoraggianti e pieni di entusiasmo. Abbiamo deciso di leggerne uno che sentiamo a noi particolarmente vicino. Marco ci ha scritto: è uno spazio che andava colmato, è un servizio per tutti i senzienti, è una trasmissione fatta con il sorriso e con un bello spirito, competente e rivoluzionaria. Vi auguro ogni bene e un seguito sempre più vasto. Anche oggi parleremo di animali, parleremo anche di salute, affrontando il malinteso secondo il quale mangiare animali sarebbe sinonimo di buona alimentazione, mentre una dieta a base di vegetali rappresenterebbe un rischio. Ne parleremo con un vero esperto, il professor Leonardo Pinelli. Il nostro incontro con gli altri animali avrà come protagoniste due magnifiche mucche. Siamo infatti tornati all'Ipoasi, fattoria della pace di Marina di Pisa, apposta per incontrarle. La mucca è il simbolo del consumo di carne. I bovini sono animali miti e mansueti, eppure, o forse proprio per questo, sono la specie più schiavizzata e umiliata al mondo, specie in quello occidentale. La loro sofferenza risuona nel chiuso delle mura di allevamenti e mattatoi di mezzo mondo. Noi andremo alla scoperta della loro vera natura, incontrandone due molto speciali, che dopo aver fatto l'esperienza della catena e dello sfruttamento, hanno avuto la fortuna di venire liberate, passando da un destino di sofferenza e morte a una vita rispettosa della loro etologia e 100% cruelty free. Giuseppe, con quale musiche condirai la trasmissione di oggi? Iniziamo con Peter Gabriel, uno degli artisti vegan più innovativi. Sentiamo in sottofondo il coinvolgente brano dedicato alla poetessa Annie Sexton. Avremo modo di ascoltare cavalli scintillanti che cantano di mucche, vegetali consumati sulle spiagge californiane negli anni 60 e canzoni black moderne arrangiate come pezzi degli anni 60. Ci sarà spazio per le emozioni che investono una donna che sta per diventare madre. Inoltre ascolteremo la versione strumentale di un famosissimo lead di Schubert che attraverso le gesta di un pesce, che oggi è il soprannome del figlio di un politico, ne fa una metafora della vita. Finiremo con l'energia del Blur, poliedrico gruppo degli anni 90. Per scoprire la trama che unisce brani al programma restate in ascolto e visitate il nostro blog che Restiamo Animali .wordpress.com, dove potete riascoltare la playlist e leggere il perché di queste scelte. Dedichiamo questa puntata al Mahatma Gandhi, il maestro della non violenza vissuto fra il 1869 e il 1948, una guida spirituale e politica che ha lasciato un segno profondo anche nella cultura occidentale. Cresciuto in India, in una famiglia appartenente a una casta che praticava il vegetarismo, per un breve periodo consumò carne, salvo poi convincersi del profondo valore morale della scelta vegetariana. Ci piace ricordare questo suo pensiero. La grandezza di una nazione e il suo progresso morale possono essere valutati dal modo in cui vengono trattati i suoi animali. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Siamo all'Ipoasi, a Marina di Pisa, siamo con Cristian. Abbiamo davanti a noi due meravigliose mucche al sole che sembrano assolutamente il ritratto del relax e della tranquillità. È così? Che tipo di relazione hanno con tutti gli altri animali che li circondano? Cavalli, capre, asini, maiali? C'è un rapporto fra le mucche e gli altri animali? Oggi diciamo che è tutto molto tranquillo, così non era quando sono arrivate. Luna e Terra sono appunto le mucche che abbiamo qua davanti, sono gli unici due bovini che vivono attualmente all'Ipoasi, sono arrivate qua circa 2 anni fa e quando sono arrivate certamente non avevano tutta questa tranquillità. Loro sono state salvate dalla lave di Chieti, da un allevamento che stava chiudendo. E ovviamente hanno passato tutta la, vita fino allora legata a catena in una scuderia chiusa, quindi non potevano muoversi, non conoscevano il sole, non conoscevano la terra, non potevano socializzare tra loro perché comunque pur essendo vicine non potevano comunque toccarsi. Luna e Terra hanno dovuto imparare piano piano ad essere libere. All'inizio erano state messe insieme con gli altri animali, ma non riuscivano a sopportare lo stress. Egon e Christian furono obbligati a metterle in un box per arrivare a un inserimento graduale nel recinto comune. Erano completamente disadattate. Erano spaventate soprattutto dai cavalli. Racconta Christian che di fronte a loro fuggivano a zampe levate rompendo tutto ciò che si trovavano davanti. Ora non è più così. Hanno capito che se un cavallo li vuole un po' giocare, li fa scappare, loro fanno una corsetta e poi tutto finisce lì, per cui gli è passato questo grande terrore degli altri inquilini. Infatti oggi le vediamo nell'ambito del grande recinto degli Ipposi, in uno spazio libero, non protetto, ci sono solo dei cumuli di paglia sui quali attualmente sono adagiati. Hanno relazioni anche con gli altri animali, con gli asini, le capre? Allora, i cavalli e gli asini no, perché loro appunto sono un po' dominanti e loro e le mucche come carattere sono molto remissive, sono molto tranquille e amano veramente vivere in maniera totalmente pacifica, senza alcun tipo di conflitto. Infatti si possono vedere tranquillamente ora al sole. Sì, veramente sdraiate, tutte che ruminano. E quindi ecco, con i cavalli e gli asini non riescono ad avere un rapporto sereno, con gli altri animali invece sì. Christian ci racconta una scena davvero curiosa, con Terra sdraiata a terra al sole, un po' come la stiamo vedendo adesso, e ben tre capre sopra di lei, che giocavano e riuscivano anche a prendersi a cornate fra loro. Insomma, le mucche prediligono animali più piccoli di loro. Chissà che non vedano in loro dei cugini. Christian ci dice che Terra più di una volta ha leccato una delle capre, proprio come farebbe con un vitello. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Per le perle di oggi, il libro di Jeremy Rifkin, Ecocidio, ascesa e caduta della cultura della carne. Si tratta di un testo del 1994, pubblicato in Italia per la prima volta nel 2001, che a 20 anni di distanza è ancora attualissimo. Rifkin collega la cultura della bistecca imperante nella nostra società con la devastazione ambientale e la fame nel mondo, ma anche con la teoria della razza, la cultura macista e sessista, la concentrazione di ricchezze capitaliste, la divisione del lavoro, la catena di montaggio e gli standard di efficienza. Tutti i concetti originariamente messi a punto nei mattatoi. Un libro illuminante e profetico. Per incuriosirvi, ecco alcuni brani. Per liberarsi la coscienza, l'uomo moderno ha eretto una serie di barriere che lo separino, per quanto possibile, dall'animale di cui si nutre. Sottraendosi a una relazione intima con la preda, l'uomo è riuscito a sopprimere il profondo legame emotivo che, insieme alla paura, al disgusto, alla vergogna e al pentimento, accompagna l'uccisione di un'altra creatura. Oggi bovini e altro bestiame sono tenuti separati, sottratti alla vista del pubblico, fino al momento in cui compaiono sotto forma di tagli e porzioni al banco dei supermercati. Gli allevatori hanno rinchiuso il patrimonio zootecnico della nazione in aree rurali recintate ed escluse alla vista del pubblico, come complessi industriali. Le stalle sono talmente automatizzate che il contatto fra inservienti animali è minimo. Perfino il dosaggio giornaliero del cibo spesso è gestito e regolato da un computer. L'ubiquo hamburger rappresenta l'ultimo stadio del moderno processo di decostruzione della carne. Il bovino è stato disassemblato in una materia indistinguibile, reso manipolabile e modellabile in un processo di produzione altamente meccanizzata. La mucca è stata smembrata, disarticolata, ricostruita, pressata in unità rotonde, ordinate, facilmente confezionabili, che possono essere congelate, trasportate, impilate, grigliate, consumate con il minimo della fatica. Il processo mediante il quale i bovini vengono allevati, ingrassati, macellati e confezionati è altamente razionalizzato, utilitarista e vantaggioso. Un processo interamente automatizzato in cui l'uomo non è coinvolto, che marginalmente. È probabile che i proprietari dei negozi in cui si vende carne di bovini nutriti a cereali non avvertano mai personalmente la disperazione delle vittime della povertà, di quei milioni di famiglie allontanate dalla propria terra per fare spazio a coltivazioni di prodotti destinati esclusivamente all'esportazione, e che i ragazzi che divorano cheeseburger in un fast food non siano consapevoli di quanta superficie di foresta pluviale sia stata abbattuta e bruciata per mettere a loro disposizione quel pasto, e che il consumatore che acquista una bistecca al supermercato non si senta responsabile del dolore e della brutalità patiti dagli animali nei moderni allevamenti ad alta tecnologia. Oggi i bovini vengono al mondo con l'inseminazione artificiale, il trasferimento di embrioni e tecniche di clonazione. Allevati con l'occhio all'efficienza economica più che all'adattamento della specie, sono alimentati forzatamente, imbottiti di farmaci, monitorati da macchine, costretti e controllati, segregati e manipolati per soddisfare le caratteristiche imposte dalla moderna zootecnia. Dalla nascita alla macellazione sono trattati come prodotti industriali. Inside sit the butterflies for the butterfly ball. Mi chiamo Elisa Moretti e curo il blog della trasmissione. Sono animalista e vegana, ho adottato due cani che vengono da situazioni difficili e pochi giorni fa ho avuto un bambino, Valerio, vegano fin dal concepimento perché anche durante la gravidanza non ho cambiato la mia alimentazione. Valerio è nato di più di 4 kg di peso, dunque è un buon simbolo per contraddire il pregiudizio che i bambini vegani sono malaticci e debilitati. A questo proposito, anche grazie a qualche medico fuori dagli schemi, si sta affermando la consapevolezza che l'alimentazione vegana, quando è ben equilibrata e integrata, può migliorare le condizioni di salute di adulti e bambini. Il professor Pinelli è stato tra i fondatori del primo ambulatorio pediatrico per vegetariani e vegani a Verona. Dopo la sua intervista vi presenteremo una nuova rubrica, Mangia come parli, che ci aiuterà a chiarire i concetti ricorrenti della nostra trasmissione. Cominceremo con la misteriosa parola vegan. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Professor Leonardo Pinelli è il fondatore del primo ambulatorio vegetariano e vegano pediatrico a Verona. Professor Pinelli, che cosa succede normalmente ai genitori vegetariani e vegani quando si rivolgono al loro pediatra al momento dello svezzamento? In genere sono aggrediti, se non scoraggiati, ma essendo la maggior parte di queste famiglie motivate su base etica animalista, sì, non li dissuadi, per cui si ritrovano da soli. Allora cosa fanno? Vanno su internet, comprano qualche libro, ecco, quindi, e fanno un fai da te. Nonostante la chiusura dei pediatri, un percorso di alimentazione vegana per bambini comunque è fattibile. Fattibilissimo, perché alla fine basta integrare con la B12 e stare attenti ad altri alimenti, nutrienti, quindi il ferro, ma questo succede anche per il latte vegetariano, insomma. Non ci sono grosse differenze, dipende un po' dalla famiglia. Se sono vegani, quindi sono esperti genitori, è una situazione tranquilla, va pianificata. Professore, quello che lei ci dice fa venire qualche dubbio sulla diffusione delle conoscenze in materia nutrizionale fra medici e pediatri. Ma quanta formazione si fa in questo campo nelle università? Era circa 15-18 ore in 6 anni, niente. Quindi in tutta Italia, in tutto il mondo escono medici impreparati sotto il profilo nutrizionale. Cioè, in pratica non si è capito che l'alimentazione è la base per un mantenimento di uno stato di salute. Cioè, quando uno perde la salute perché mangia male, poi cominciano ad avere problemi. Allora il problema non viene risolto facendo una corretta anamnesi alimentare e modificando le abitudini alimentari, no, viene risolto con i farmaci. E quindi questo non funziona. Quindi quando poi si va a parlare, a spiegare queste cose, quando manca una base di formazione sulla nutrizione, non ci si capisce, insomma, ecco, quindi rifiutano, diventano aggressivi e insomma. Lei ed alcuni suoi colleghi vi state battendo per introdurre le conoscenze sull'alimentazione vegetariana e vegana nel patrimonio culturale dei medici. Che cosa chiedete alla comunità scientifica? Signor, ci sono 5 milioni di persone che hanno fatto questa scelta irremovibile. Vogliamo dargli una guida, aiutarle e far sì che i medici possano seguire queste guide. Insomma, ostacoli, non volevano sentire parlare, perché ovviamente c'è della gente legata alla carne, lasciamo stare i motivi, meglio sorvolare, perché di birbanti ce ne sono anche nel nostro campo purtroppo. Ma adesso siamo arrivati al punto in cui si comincia a analizzare la letteratura scientifica, e la letteratura è tutta dalla nostra parte, quindi siamo sicuri. L'obiettivo è quello in un anno di uscire, non si chiameranno linee guida, perché sennò succede la rivoluzione, non vogliamo guidare nessuno verso l'alimentazione, insomma dei consigli, chiamate che cavolo volete, ma insomma tirate fuori qualcosa e ci arriveremo. Questo è molto importante, perché su questa base si può fare dei corsi per i medici. E quindi una domanda personale: nella sua famiglia siete vegetariani, vegani? Tutti. Allora, io ho fatto un percorso, ho cominciato 10 anni fa, prima latto ovo, poi piano piano, è un percorso comune a molte persone. Noi abbiamo un centro nel nostro cervello antico, nell'ipotalamo, che seleziona gli alimenti salutari da quelli nocivi. Ecco, quando uno mangia male, il centro, diciamo, va in sonno, non funziona. Quando uno comincia a mangiare bene, uno si accorge che ci sono certi alimenti che non vanno bene, che gli danno problemi, allora piano piano elimina, quindi via le uova, via il pesce e via la carne ovviamente per prima. Insomma, adesso sono alle prese con il problema di qualche latticino, ma raramente, insomma. Mangia come parli. Le parole, non solo parole, parole tra noi. I'm gonna be round my vegetables, I'm gonna chow down my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. Il termine vegan in inglese, ha una data di nascita ufficiale, anche un padre conosciuto. La parola fu coniata in Inghilterra nel 1944 da Donald Watson, che era un membro della società vegetariana inglese e che in quello stesso anno, con altri attivisti, avrebbe dato vita alla Vegan Society. Il termine è una contrazione di vegetarian, da cui prende le prime 3 e le ultime 2 lettere. L'inizio e la fine del vegetarismo, ha detto una volta Watson con un pizzico di ironia. Watson e i suoi amici crearono la nuova organizzazione perché la Vegetarian Society respinse la proposta di estendere il rifiuto di nutrirsi con cibi di origine animale ai prodotti caseari. Per ottenere latte e formaggi, dicevano, le mucche sono schiavizzate, sono separate dai figli neonati, i vitelli sono destinati al macello e loro stesse a una fine precoce, una volta diventate poco produttive. Perciò è giusto per un vegetariano non alimentarsi con latte, burro, formaggi. La Vegan Society, in sostanza, intendeva allargare l'ambito di applicazione dei principi vegetariani. Non solo il rifiuto di essere complici della morte diretta degli animali da carne, ma anche dello sfruttamento e della morte precoce di quelli utilizzati per il latte. Lo stesso principio di lì a poco sarebbe stato applicato alle uova e alle galline. Oggi la Vegan Society definisce il veganismo la dottrina secondo la quale l'uomo dovrebbe vivere senza sfruttare animali, proponendo così una filosofia, uno stile di vita che cerca di eliminare lo sfruttamento degli animali per il cibo, per il divertimento, la ricerca scientifica, l'abbigliamento, il lavoro. In italiano parliamo di vegani e di veganismo, adattando il termine inglese. Questa terminologia ha avuto più fortuna di un sinonimo che per qualche tempo è stato utilizzato, ossia vegetaliani, con la L al posto della R, a identificare un'alimentazione di origine totalmente vegetale. Ma l'etica vegan, come abbiamo detto, non ha solo valore alimentare. 1, 2, 3, proposito di veganismo, ci spostiamo dallo studio 2 alla cucina di casa vostra per presentarvi un pasto davvero gentile con noi stessi e con tutti i viventi. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Prendete carta e penna perché Giuseppe sta per darci una fantastica ricetta. Giuseppe, di che cosa ci parlerai oggi? Una ricetta fatta di farro, tofu e topina... Oioi, c'è il picco d'ascolto! Topinambur! Ah, meno male! A smentire il luogo comune che chi sceglie vegan mangia cose strane, vi propongo un piatto adatto alla stagione con ingredienti che in Italia erano conosciuti già dall'antichità. Sono il farro e il topinambur, che è il lontano parente dell'americana patata. Però noi italiani, si sa, siamo sempre stati un po' esterofili e così, al fascino di una radice nutriente, leggera, leggiadra come un girasole, abbiamo preferito un anonimo rizoma pieno di amido. Ti riferisci alla patata, quindi? Bravo. La stai attaccando? Sì. Sarai mica anti-americano? No. Questi comunisti. Le patate le sappiamo fare anche noi, crescono anche in fondo ai piedi e comunque anche nelle nostre campagne. Nella ricetta di oggi useremo anche il tofu. In questo modo diventa un piatto unico a cui possiamo aggiungere un'insalata. Il tofu, per chi non lo sapesse, deriva dalla cagliatura del latte di soia. Se si cucina usando piccoli accorgimenti, può rivelarsi una piacevole sorpresa, come nel caso appunto di questa ricetta. Carta e penna per gli ingredienti: 500 g di topinambur, 300 g di tofu, una tazza di farro perlato, uno scalogno, sedano, una piccola carota, un cucchiaio di mandorle, un cucchiaino di curcuma, pizzico di noce moscata, pizzico di cumino, timo, olio evo del medioevo e prezzemolo. Preparazione: sciacquare il farro e metterlo in una pentola con 2 tazze d'acqua, un pizzico di noce moscata e, se piace, anche un po' di cardamomo in polvere oppure i semi di una bacca. Mettere la pentola sul fornello e far cuocere rispettando i tempi necessari alla cottura. Pulire, sbucciare e tagliare a dadini il topinambur e il tofu. Tritate grossolanamente scalogno, sedano e carota. Mettere a scaldare a fiamma media, in un tegame antiaderente, un po' d'olio evo, ovvero extravergine d'oliva, la curcuma e le altre 2 spezie. Appena l'olio diventa di un bel colore giallo-oro, aggiungere le verdure e fatele saltare pochi secondi e mettere poi l'apposito coperchio. Dopo qualche minuto aggiungere il tofu e le mandorle e un po' di sale e il timo ed eventualmente anche qualche cucchiaio d'acqua e quindi rimescolare e coprite. Di tanto in tanto rimescolate per evitare che il composto si attacchi. Dopo 15 minuti sarà cotto. Aggiustate di sale, aggiungete del prezzemolo, del peperoncino se vi piace, spegnete la fiamma e aggiungete un po' d'olio. Ricordatevi naturalmente di non far scuocere o bruciare per mancanza d'acqua il farro che state lessando. A fine cottura del farro, sistematelo di sale e aggiungete un giro d'olio di quello buono. Passiamo all'appuntamento filosofico con il professor Luigi Lombardi Vallauri, che oggi ci parlerà degli elementi di affinità e di divergenza fra gli umani e gli altri animali e quindi delle ragioni che ci spingono a considerarli come individui degni di tutela. Sostiene Vallauri. Dal punto di vista, diciamo, psicologico, l'uomo è un animale, cioè gli animali hanno fame come noi, sete come noi, freddo come noi, paura come noi, tutte le 6 emozioni fondamentali di cui parla Darwin sono in tutto come noi, e queste emozioni che loro provano nella savana noi le proviamo perfino davanti al capo ufficio. Uno ha odio e paura del capo ufficio anche se non è nella savana. La differenza tra l'uomo e l'animale è l'incredibile virtuosità nell'uso dei simboli, dei discorsi, dei linguaggi simbolici. Questo ci ha permesso di edificare delle meraviglie, che sono tutte le arti, tutto il pensiero, l'etica stessa, la spiritualità, tutte cose che gli animali ovviamente non hanno. E quindi credo che non dobbiamo avere paura, come invece l'hanno molti animalisti, di riconoscere in quest'unico campo, però in questo campo sì, la superiorità dell'uomo. ma non è affatto un argomento per il suo dominio. Questo è un punto che io sottolineo sempre. Cioè, più dimostriamo darwinisticamente che gli animali sono come noi e più abbiamo il diritto di trattarli come se fossero uno di noi. Più dimostriamo che siamo superiori e più abbiamo il diritto di trattarli come richiede la nostra nobiltà. Io cito sempre la frase francese noblesse oblige. La nobiltà non crea privilegi, la vera nobiltà, ma crea doveri. Più sei su e più hai doveri, non più sei su e più puoi approfittare degli altri. Quindi due ragioni di tutelarli, perché sono estremamente simili anche nella loro incredibile diversità e perché sono inferiori sul piano dello sviluppo intellettuale. Una segnalazione. Anche quest'anno il WWF organizza un servizio di volontariato per salvare i rospi, che in questa stagione, essendo in amore, attraversano a migliaia le strade per raggiungere gli stagni dove vanno a riprodursi, facendo ovviamente una brutta fine. Salvarli è un'esperienza bellissima, piena di emozione, che vi consigliamo di fare. Per informazioni chiamate Carlo al numero di telefono 338 399 4177. Il servizio è indispensabile ogni sera, dalle 17 alle 21, per le prossime 3 settimane. Ed è arrivato il momento dei saluti. Vi ricordiamo che aspettiamo i vostri commenti, le vostre segnalazioni al nostro indirizzo di posta restiamoanimali@controradio.it. Nel nostro blog troverete approfondimenti, ricette, fotografie, consigli di lettura su tutti i temi trattati in questa puntata. Il blog è restiamoanimali.wordpress.com e nella home page di controradio.it. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.